oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Inoltre regolare protesta al commerciale perché la pubblicità sfora. È troppo lunga. Esatto. E dopo poi come facciamo noi di oltre la crisi? Esatto, è cominciata in goliardia, dal fuori onda è successo di tutto e salutiamo Francesco Campione, ciao. Buongiorno. Che si ritrova in mezzo alle nostre diatribe radiofoniche. Interne. Esatto. Allora, il telefono è in carica, quindi ricordo subito i contatti. Partecipate numerosi, 333 180 94 94 per i vostri sms o WhatsApp. Bene, e invece il numero fisso 051 34 64 58 per partecipare in diretta in questa oretta o quel che ne rimane. Comunicazione di servizio, mi alzi un po' la cuffia che so sorda, sai com'è la vecchiaia. Mi rendo conto. Ecco. Quei due mesi si separano, fanno la differenza. Esatto. Allora, intanto salutiamo. Devi sapere, Francesco, che la nostra trasmissione sta coprendo tutto il territorio nazionale. Mi sono arrivate informazioni poc'anzi che ci stanno ascoltando dalla provincia di Lecco, ci stanno ascoltando da Torino e anche dalla Campania. E quindi invitiamo anche loro a partecipare. E dalla Tunisia, no? Oddio, non mi è ancora arrivata la notizia. Vorrei essere ascoltato anche all'estero. Sì, però dobbiamo farla in arabo la trasmissione e no, diventa complicata. Basta in francese. Ecco, appunto. Meglio stare. In arabo. Basta in francese. Era meglio l'arabo. Dunque, la settimana scorsa abbiamo parlato di leadership, di figure di leader, di affidamento al leader in maniera quasi salvifica, come proiezione delle proprie insicurezze e delle proprie impotenze. L'avevi proprio citato questo termine la volta scorsa. E quindi, a proposito di impotenza, vorrei pian pianino portare il discorso a quello che significa, anche perché quando poi ti affidi per impotenza a un qualcosa, che può essere una persona, una situazione, eccetera, e questa ti delude più e più volte, poi dopo si ottiene una sorta di effetto boomerang che porta, per esempio, in clima di cittadinanza, a una disaffezione, all'allontanamento dalla politica, inteso come fare politica, quella di tutti i giorni, non dalla politica, quella di palazzo, ma quella di palazzo poi ti porta a non interessarti più. Ed è anche quello che un po' hai sottolineato tu in varie puntate, soprattutto quando parlavamo della disoccupazione giovanile, ovvero che comunque ci sono tanti giovani magari a casa con tanto tempo libero mentre cercano o addirittura hanno rinunciato a cercare il lavoro, e però che potrebbero occupare le loro energie, anche giovanili che sono tante, in situazioni politiche per migliorare questo nostro mondo impossibile, e in realtà rimangono immobili. Sì, c'era uno slogan della mia ormai remota gioventù che recitava precisamente così: tempo libero uguale tempo di rivoluzione. Parliamo del secolo scorso, vero? Parliamo del secolo scorso, certo, anche se non è passato un secolo. Però parliamo del secolo scorso. Tempo libero, tempo di rivoluzione. Ecco, allora io direi che qui le ripercussioni critiche sono notevolissime oggi. Per esempio, si è persa l'idea che il mondo possa essere cambiato. Il mondo, tutti sono convinti che non cambia più mai niente. E la ragione di questo è fondamentalmente la sfiducia nella possibilità di incidere sulla realtà partecipando alla vita. Per cui va a finire che ciascuno in fondo tende a partecipare soltanto alla propria vita. Alla propria vita. E se è bella la propria vita, è carino partecipare alla propria vita. Se invece è brutta, partecipare alla propria vita è la cosa più squallida e più triste che possa esistere. Allora il nostro problema è che questo, come dire, è una crisi dell'umano, è una crisi di quella possibilità della dell'umanità, di che è stata sempre in qualche modo dietro ogni sforzo culturale di uscire dallo stato di natura, che consiste appunto nel costruire mondi, nel costruire mondi nuovi, nel costruire mondi migliori rispetto a quello nel quale si vive. Questo mi sembra la cosa più grave di questa crisi, l'effetto più grave di questa crisi. Per cui, per esempio, appunto, tutto ciò che è di cattivo, che l'epoca, lo spirito dei tempi ci porta in sorte, per esempio appunto la disoccupazione, per esempio il fatto che il futuro è incerto, non si sa se ci sarà, se non ci sarà, dal punto di vista della vivibilità della terra, dal punto di vista delle carriere, c'è incertezza, dal punto di vista dei rischi che il mondo e la nostra vita corre, così eccetera. Che facciamo rispetto a questo? Niente, siamo inerti. Quindi è una crisi dello sforzo culturale di creare mondi, che è l'unica difesa che l'uomo ha nei confronti della natura, finché è nello stato di natura, e nei confronti dei disagi della civiltà quando vive in una civiltà. Siamo inerti, c'è una sorta di resa in corso, di resa individuale ma soprattutto collettiva, cioè non si crede più nel poter, come dicevi tu, nel poter incidere a livello collettivo, non si crede più negli strumenti che fino a qui sono stati messi in atto, mi viene in mente lo sciopero, la manifestazione, l'occupazione, insomma, non si crede più nell'efficacia di questi strumenti perché sono stati anche, diciamo, parecchio smontati e demonizzati come strumenti, per cui anche utilizzando spesso parole a sproposito, una bomboletta spray su un muro viene definita violenza inenarrabile, cose, per cui anche questo crea cultura, o sbaglio? Sì, cultura, come dire, negativa, cultura. Certo. Cultura regressiva da un certo punto di vista, no, io credo che il problema, poi certamente dobbiamo stare attenti a non guardarci l'ombelico, cioè stiamo parlando poi di quello che accade chez nous, da noi, certo. No, quello che accade nel mondo, nel cosiddetto primo mondo, no, nel quale noi viviamo, quello che accade più profondamente in Europa, nel vecchio mondo, no? Quindi potrebbe essere l'espressione di una decadenza, della decadenza di una civiltà, no? E però c'è anche da considerare il fatto, appunto, come dicevi tu, che gli strumenti del passato, che le idee del passato, per esempio oggi c'è tanta gente che si ribella, ma c'era un articolo ieri o avantieri sul Corriere molto bello di Claudio Magris, il quale distingueva fra l'atteggiamento della rivoluzionario, il comportamento e il comportamento ribelle, no? Allora c'è molta ribellione, secondo lui la ribellione non è altro che è qualcosa, secondo lui, da rivalutare, cioè il tentativo di ribellarsi al fatto che per esempio le leggi ci sono ma non vengono applicate. Allora ci si ribella, e faceva l'esempio, per esempio, di una persona di colore che ha subito un'ingiustizia e che non si è arreso mai con le denunce per farsi dare giustizia. Senza, per esempio, ecco, questo è un nodo che da sciogliere. Per esempio, il mondo si cambia facendo sì che le leggi giuste che ci sono vengano applicate, o quando non vengono applicate si sbaracca tutto il mondo per fare leggi nuove? Cioè, cosa bisogna fare? Bisogna ribellarsi all'ingiustizia e cercare di fare in modo che la giustizia si instauri, o bisogna rivoluzionare il mondo, cioè bisogna distruggere tutto, dato che, ecco, per esempio, questo è un nodo, cioè, dal punto di vista giovanile è un nodo molto importante. Perché tante persone, per esempio, pensano che sia inutile ribellarsi, che tanto hanno sempre ragione i più forti, che tanto quelli che hanno più soldi hanno gli avvocati più che possono pagare, che tanto giustizia non la otterranno, e quindi non la chiedono neanche la giustizia, non si ribellano, no? E d'altra parte l'alternativa, come diceva Magris, alla ribellione è la rivoluzione. Se tu non ti ribelli, che non credi più nella possibilità della giustizia, l'unica cosa che puoi fare è cercare di instaurare un altro criterio di giustizia, cioè fare la rivoluzione. E allora tra ribellione e rivoluzione tutto diventa impossibile e restiamo inerti. Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di raccontarci i loro piccoli o grandi atti di rivoluzione. O di ribellione. O di ribellione. O se non atti, le cose a cui si vorrebbero ribellare o che vorrebbero rivoluzionare. Direi che potrebbe essere un modo di, per darci degli spunti anche per continuare questa conversazione. Io quello che mi domando è... so che a te non piace quello che sto per dire, la storia insegna, questo non ti piace, che però i momenti di inerzia o di afasia in un qualche modo, perché mancano anche le parole, devo dire. Io sono stata, le ultime manifestazioni in cui sono state, sentivo slogan che erano ancora efficaci, se vuoi, come messaggio, ma coniati tanto tempo fa. Non ci sono nuovi slogan calati, o sono pochissimi, insomma, calati nella realtà di oggi. Dicevo, la storia insegna che però i momenti così di inerzia non durano per sempre, come niente dura per sempre, quindi visto che è già da un po' che c'è questa cappa ferma, immobile, così, pensi che ci possano essere, fatalisticamente parlando, dei segnali di ripresa di una coscienza e quindi di una, anche di un'attività, non più di inerzia? No, questo che non, quello che tu evochi adesso è il tempo. Il tempo passa, se l'inerzia dura, dopo un po' si smette di essere inerti, perché si arriva al fondo dell'inerzia e si passa all'opposto. Questo è verissimo. Ecco, però il problema è che se le cose stanno così, cioè se bisogna affidarsi a un automatismo, no? Tra l'inerzia e il movimento non c'è differenza, perché in definitiva sono l'uno, sono due facce della stessa medaglia. Il problema è invece quello, l'altra cosa che evocavi tu, quando dicevi che non ci sono le parole, che si citano, che si ha nostalgia degli slogan del passato, dei punti di vista del passato, dei valori del passato e così via. Manca la creatività. Quello che manca è, sì, la creatività. Perché più che stavo per farti un'obiezione, siamo sicuri che è nostalgia e non invece incapacità di creazioni nuove? Ma quando non c'è il futuro si guarda inevitabilmente a quello che nel passato, si ha inevitabilmente un po' di nostalgia di quello che nel passato si è vissuto e che ha un altro segno, e che ha un segno positivo. Il problema è la mancanza del futuro, cioè il problema è che il futuro è sbarrato, il futuro è appunto afasico, il futuro non c'è creatività, cioè il problema è questo. Cioè il problema è, adesso per esempio in Germania in questo momento c'è una polemica dal punto di vista letterario, c'è un giovane scrittore che ha scritto, dice ma che produce la letteratura tedesca? Sempre lo stesso rimestare, gli stessi sentimenti, le stesse cose. Ma guarda, il mondo è cambiato, basta queste storie, basta Dante Alighieri, basta Shakespeare, basta. Siamo in un altro mondo. D'accordo, tanto di cappello per Dante Alighieri, per Shakespeare, per la Bibbia, eccetera, eccetera. Ma noi ci siamo, noi siamo anche noi, inventiamo altre parole, altri Dante, altri Shakespeare, altre vie per vivere. Allora, la creatività è il problema. E la creatività deriva, in definitiva, dalla fiducia di poter mettere nel futuro qualcosa che sia appartenente a sé, a questo tempo, che non sia necessariamente derivato da un altro tempo. In questo senso, da questo punto di vista, ritornando al problema della storia, no? Bisogna abbandonare la lezione della storia per essere creativi. senza abbandonare la lezione della storia non si può essere creativi, bisogna tradire la storia per essere creativi, altrimenti è impossibile essere creativi. Bene, su questa hai citato la Germania, poi rientriamo dopo il brano musicale con un messaggio di Andrea che cita una parola tedesca. Ciao Andrea, benvenuto. Grazie Andrea, sempre presente. Andiamo col brano. Musica, Donald Byrd, Isaac Hayes. Vabbè, mi stavo annodando tra telefono e cuffie. E poi dopo mi assicuro un'oretta di terapia. Allora, dicevamo, Andrea ci ha scritto questo messaggio. Buongiorno, splendida plus al prete e al grande Willy. Ciao. Sentire un prete che dice spirito dei tempi fa scattare la Zeitgeist anticlericale che è in me. Zeitgeist è rivoluzione. E poi ti aggiungo anche l'altro messaggio di Andrea in merito all'inevitabilmente tradire la storia, dicevi. Ma prete, si inventa o si scopre? Ma i sensi umani, le sue paure, le sue aspirazioni non sono sempre le stesse? Silenzio. Se tutto fosse sempre uguale, come, cioè se fosse come dice Nietzsche, che è l'eterno ritorno dell'uguale, se tutto fosse sempre uguale, il mondo e la vita, l'universo, il cosmo e l'esistenza sarebbero qualcosa di ciclico non ci sarebbe senso a parlare di creatività. Si parla di creatività, si può parlare di qualcosa di nuovo perché ci può essere sempre quello, perché si pensa a un tempo diverso, cioè si pensa a un tempo infinito, non a un tempo ciclico. Non si pensa neanche a un tempo indefinito, quello della scienza, cioè in definitiva il tempo che il nostro amico evoca è il tempo ciclico della è stato sempre così e sempre così sarà, cioè il tempo ciclico della storia. In realtà non esiste solo questo tempo. Se fosse quel tempo, se ci fosse solo quel tempo lì, saremmo prigionieri. E francamente io vorrei evadere da quel tempo lì, dal tempo che ripropone sempre: facciamo la rivoluzione, cambiamo il mondo e poi ci ritroviamo sempre un mondo di merda un'altra volta. Cioè, mi sembra un pochino che forse una speranza in più ce l'abbiamo quando consideriamo che ci sono che è possibile fare cose nuove, non solo scoprire ma inventare non a partire, inventare, perché inventare a partire dai materiali che ci sono già in fondo è costruire, non è creare. Creare vuol dire proporre qualcosa di nuovo dal nulla. In questo senso, torno ad essere prete, in questo senso... ormai te la sei tagliata. No, ma ormai me la sono tagliata, ma ne approfitto. Torno ad essere prete, in questo senso la nozione cristiana, ebraica, delle nostre religioni, della creazione dal nulla, cioè che il mondo viene dal nulla, non viene da qualcosa, no? È precisamente questo, l'idea che ci può essere qualcosa che prima non c'era, qualcosa di cui prima non si poteva rintracciare nulla. Ora, in questo sta... Ecco, su questo però posso dirti una cosa, che buona parte della crisi anche culturale del nostro cosiddetto mondo occidentale viene anche dal fatto che c'è una sorta di scarsa speranza, anzi, devo dire, questo è un eufemismo, scarsa speranza, si è convinti che non ci sia più niente da... trovare, da scoprire di nuovo, che l'unica cosa che ci è rimasta è ricicciare, riciclare quello che già più o meno abbiamo, magari rivedendolo, correggendolo. Questo vale anche a livello di creatività culturale, non solo di creatività da cittadino, diciamo così. Certo, perché è tutto, perché il nostro mondo si basa sul sapere e in realtà sì, sono molte di più le cose che non sappiamo. Basta pensare, lo sappiamo che succederà domani? Quest'idea che possiamo prevedere quello che succederà domani è una fesseria pura, no? Quindi, in definitiva, è molto più... mia astrologa ha detto che... Certo, poi il tentativo di prevedere il futuro, poi si fa, se uno è razionale, attraverso la scienza, se uno è un pochino più approssimativo, attraverso qualche tipo di divinazione, che può essere nel leggere le carte, che può essere nell'oroscopo. Qui ti torno a bomba sul leader, perché in realtà quando ci si affida completamente a un leader è proprio perché ti sembra che lui ti ti stia narrando, ti stia dando la sicurezza di quello che succederà domani, e la delusione è cocente quando poi domani non succede. Bravissimo, bravissimo, bravissimo, è proprio così. Andiamo in pubblicità dopo questa citazione veramente arguta della nostra Plus, come ti chiamano? Plus. No, ma poi torniamo con tutti e tre Plus, dai. A fra poco pubblicità, poi torniamo in diretta in Oltre la crisi. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. For flowers in my Asian vase is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. In diretta, oltre la crisi, parliamone. Stiamo parlando di astenia sociale, si potrebbe definire così con un termine medico, ovvero l'immobilità che un po' ci piglia tutti. Avevo lanciato la sfida prima di raccontarci via messaggio, intervenendo telefonicamente, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, le piccole o grandi rivoluzioni a cui tendono o che mettono in pratica nel loro quotidiano. Intanto io leggo un messaggio che ci è arrivato da Manuela. Thomas Kuhn direbbe che bisogna mettere in discussione dall'interno il paradigma, ovvero vedere un pendolo in una corda con un sasso al fondo. Aggiunge Manuela, mettere un orinatoio in mostra. Il problema che ci vuole pazienza per raccogliere i risultati, qualsiasi essi siano, e le palle di mettere in discussione anche i migliori maestri. Certo, sulla linea è giustissimo. Adesso Manuela evoca, come dire, un modo tradizionale di affrontare il problema della creatività, che consiste appunto nel mettere in discussione i paradigmi. No, Thomas Kuhn è uno che appunto ha affrontato questa tematica, cioè secondo lui la storia della scienza è un susseguirsi di nuovi paradigmi, per cui se hai un certo modo di guardare la realtà e di studiarla, ti sembra che sia la Terra che gira attorno al Sole, se invece hai un altro paradigma ti sembra che sia il Sole che gira attorno alla Terra, e bisogna avere la creatività, si esprime attraverso il fatto che tu cambi posizione, cioè ti metti in un'altra prospettiva, e mettendo in un'altra prospettiva ti appare un altro mondo, e apparendoti un altro mondo, ora questa secondo me però non è la creatività. Né la creatività è quella dell'arte, evocata anche questa da Manuela quando dice, quando si riferisce a certa arte che consiste nel considerare, appunto dice, la merda d'artista, no? Cioè è arte quello che consideriamo arte, quello che mettiamo in mostra nelle mostre, no, non quello che è arte prima e poi lo mettiamo in mostra, ma ecco, neanche questa secondo me è creatività. Io penso che appunto il problema non sia tanto quello di cambiare paradigma, perché cambiare paradigma in realtà non vuol dire che altro. Siccome non siamo così presuntuosi, non pensiamo che nessuno si sia mai messo in quella prospettiva prima di noi. È semplicemente il ritorno di un paradigma che chissà quanto tempo fa c'era già. Tant'è vero che se andiamo a vedere, per esempio, a proposito della rivoluzione copernicana, per cui è la Terra che gira attorno al Sole, non il Sole attorno alla Terra, in definitiva nell'antichità c'erano alcuni che pensavano proprio quello che poi Galileo ha poi dimostrato mettendosi in un altro atteggiamento paradigmatico. Quindi no, la creatività a mio modo di vedere invece è un'altra cosa, è la possibilità di ricominciare da capo, cioè la possibilità precisamente che ti dà il non sapere, non il metterti in un'altra prospettiva di sapere, ma è precisamente la possibilità che ti dà il non sapere. Non so come andrà a finire e quindi sono libero di andare a destra, a manca, a testa in alto, a giù, a testa in su, come cavolo voglio, perché non so come andrà a finire. Perché non so. Questa è la creatività, cioè la creatività deriva dalla, in fondo dal fatto che nel futuro c'è qualcosa che ci attende e noi non sappiamo che cosa sia quello che ci attende. E allora noi possiamo attenderlo in un modo o nell'altro. Possiamo, per questo siamo creativi. Cioè, in fondo la creatività ha a che fare appunto con il nulla. Di fronte a noi nel futuro abbiamo il nulla, di fronte a questo nulla che facciamo? Non abbiamo appigli, non abbiamo esempi, non abbiamo, siamo sconvolti dal fatto che chissà cosa troveremo, no? Ora, la nostra cultura invece si basa, compresa quella scientifica e quella artistica, si basa sull'idea che noi qualche appiglio ce l'abbiamo, no? No, non abbiamo appigli. Se non abbiamo appigli, possiamo essere creativi. Ti volevo leggere un messaggio che ci è arrivato. Aspetta, eccolo. Oltre la crisi come punto di limite di un sistema che tutto ha dato e i cui elementi, arte, uomini, idee, non spariscono nel nulla, ma non vengono riusati sino a che non ritornano ripensati, dice Andrea. Cioè Andrea ribadisce l'eterno ritorno dell'uguale. Cioè Andrea ribadisce quello che dicevamo prima. Una concezione possibile è appunto questa, che noi in definitiva, quando siamo inerti, quando non sappiamo che cavolo fare, in realtà stiamo aspettando di riprendere, che torni una possibilità che da sempre c'è stata e che torni un'altra volta. Questa è una possibile speranza. Da un certo punto di vista, sì. L'eterno ritorno dell'uguale nicciano dà in qualche modo sicurezza. È quello che dicevi tu, prima o dopo un'altra possibilità si ripresenta. È stato sempre così. Io invece ho l'impressione che non siamo così sicuri ed è che torni un'altra possibilità. Perché se no sarebbe tutta una finta. In realtà saremmo disperati per niente. No, noi siamo disperati. Il problema è che noi siamo di fronte appunto all'incognita, all'ignoto del futuro, al trauma di quello che ci potrà accadere, e proprio se non rifiutiamo questo ignoto e questo trauma come tali, come disastrosi, proprio per questo possiamo, come diceva, faccio una citazione, un filosofo francese che si chiama, filosofo, letterato, poeta, che si chiama Blanchot, che diceva che il pensiero è il disastro. Cioè noi non pensiamo soltanto in base a quello che sappiamo, ma pensiamo quando non sappiamo niente. Possiamo pensare anche quando non sappiamo niente. Ora, questa è la nostra speranza. La nostra cultura, essendo una cultura che tende a combattere tutti i traumi, tutte le incertezze, tutte così eccetera, ci preclude questa possibilità. Appunto. È una cultura della preclusione. Adesso mandiamo il brano, perché mi avevi sollecitato una domanda, e con queste con questa ultima frase ancora di più mi viene da farti questa domanda. Io metterei un brano io. Guarda, mi ammutolisco subito perché e ti do la possibilità. Perché davanti a tutto ciò che ci ha detto Francesco, Alors on danse. Buon ascolto. Cioè, allora danziamo. Grazie. È Strome che parla di vari stati di crisi nella sua canzone e la risolve. Buon ascolto. Alors on danse, ovviamente è ironico. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la. C'est fini, alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. encore. Entriamo dopo questa canzone, perché mi porta a bomba una domanda che ti volevo fare. In una società come la nostra, già da molto molto tempo impostata sul determinismo, possiamo dire così, sul valore del determinismo, del poter determinare, del poter, siamo preparati a essere creativi? O si è spenta questa, si è atrofizzata questa, creativi nel senso che dicevi tu? Perché io, rispetto a quello che dicevi tu, la sento atrofizzata questa capacità. Come la rimetto in moto quando tutto converge verso l'opposto intorno a me? Ma secondo me ci sono diverse cose da fare. Per esempio, una cosa da fare sul piano educativo è reintrodurre nell'educazione elementi che si sono persi, non so, il peso della letteratura nella formazione di un medico, adesso dico così, no? Tocchi un punto dolente. Il peso della letteratura nell'educazione di un medico, no? Nell'educazione di un medico la letteratura tende a non avere più nessun senso, nessun peso. No? Per cui il medico ragiona in un modo scientifico, no? Quindi... Vabbè, ma mi hai appena detto che per essere creativi, nel senso che intendi tu, bisogna partire dal nulla, come se si partisse dall'inizio. Sì. Quindi che se ne fa il medico della letteratura per essere creativo? Se ne fa, nel senso che, appunto, per esempio, il cervello. Quanto si conosce del cervello? L'1%. Di ciò che dovremmo conoscere. Quanto sono presuntuosi quelli che studiano le neuroscienze? Sembra che sappiano tutto, no? Perché? Perché se per caso uno dicesse la verità, per esempio, sulla follia, che l'uomo brancola nel buio sul perché ci si ammattisce e su che cosa bisogna fare per tornare sani di mente, e forse anche per capire se è opportuno tornare sani di mente. Stavo per dirlo io, guarda, se è opportuno tornare sani di mente. Se gli dicessimo questa, se tutti sapessero questa verità, il mondo cambierebbe. Il mondo cambierebbe. Invece il problema è, cioè, vivremmo col continuo rischio e quindi con la continua possibilità dell'eccesso, che è quello che poi porta alla follia, no? Perché sono gli eccessi che portano alla follia, anche se non sappiamo come si ritorna, come si ritorna indietro, ma vivere continuamente con la inquietudine dell'eccesso cambierebbe il mondo. La possibilità dell'eccesso vorrebbe dire, per esempio, che invece di essere condannati a cercare di riempire i vuoti, cioè quando la vita è troppo vuota, o affermarci quando la vita è troppo piena, ci potremmo rendere conto che c'è un'altra dimensione psichica, e cioè la dimensione del troppo, della sovrabbondanza, delle possibilità infinite che ci sono vivendo. Per esempio, uno vive 24 ore, no? Una farfalla vive 72 ore, no? È breve il tempo? No, è lunghissimo, perché in un istante c'è tutto, ma in un istante c'è tutto se tu sei in una certa prospettiva. In realtà invece noi siamo lì che viviamo 90 anni e pensiamo che la nostra vita sia breve. Leggo l'ultimo messaggio di Andrea rispetto a quello che dicevi prima, ma se azzecca anche con quello che stai dicendo ora. Il prete fugge nelle pieghe del futuro messianica del nuovo, del Deus ex machina, ma il pensiero è creato dagli stessi uomini che hanno creato le idee di ieri e di oggi. Certo, però il prete ricorda a chi teme tanto che si evochi il Deus, che si evochi Dio, no? Gli ricorda che l'epoca moderna è l'epoca della morte di Dio e del tentativo dell'uomo di sostituirsi a Dio. Quindi che Andrea non faccia il Dio, cali un po', perché finché c'è Dio noi siamo un po' ridimensionati. Da quando Dio non c'è, tutti crediamo di essere Dio. Come risolviamo questa questione? Forse abolendo qualsiasi Dio umano. No, abolendo non... qualsiasi Dio. Il problema è che può darsi che proprio nella creatività c'è nell'uomo qualcosa di divino, senza bisogno di dire che è di là. Nell'uomo c'è qualcosa di divino, perché l'uomo può essere creativo. A forza di dire che il divino non c'entra con l'uomo, abbiamo espulso la creatività dalla vita. Il divino c'entra con l'uomo, nel senso che l'uomo è un po' Dio, nel senso che può immaginarsi un mondo, quel mondo che vuole, che ci sia nel futuro, e poi costruirlo, perché non lo sa prima se potrà o no costruirlo. L'importante è non arrivare però alla sindrome da onnipotenza, in questo senso. Ma la sindrome da onnipotenza, la sindrome di potenza è la sindrome della scienza, non è la sindrome della creatività. La sindrome che tutto è possibile quando si pensa che le cose che si immagina debbano essere possibili. Cioè la creatività è un'altra cosa, è pensare, andare incontro al nuovo, non pensando di averlo, di poterlo inventare, ma di andare incontro al nuovo pensando che c'è qualcosa di divino nell'uomo. In questo senso non è il Messia che io aspetto, no? Ma è un uomo migliore che aspetto, un uomo che sia più avanti di questa schifezza di oggi. Con questa io direi che la chiusura più bella non poteva chiudere. Esserci. Sì, assolutamente. Oh. Allora, no, chiudo con il messaggio di Andrea. Horus, Mitra, Gesù, prima di iniziare la loro predicazione hanno atteso 30 anni. Il tempo è relativo, quindi la creatività va contestualizzata alle nozioni del tempo in cui si vive. Bene, Andrea insiste a non voler essere creativo. Quando ci ascolterà bene, diventerà creativo anche lui. Perfetto. Bene, vieni avanti creativo. Grazie Andrea, grazie Emanuela, slogan. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano in lungo e largo per l'Italia. Io saluto Francesco e lo ringrazio. Grazie a voi. Ciao Francesca. Grazie a tutti. E ringrazio anche Willy che mi ha concesso di mettere un motivetto così. Puoi mettere ogni volta che vuoi la tua musica, ci mancherebbe, è bellissima. Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, vi invitiamo a restare sui 103.1 e diamo appuntamento a mercoledì prossimo con Oltre la Crisi. Buon ascolto, ciao a tutti. Ciao.